Serafino, Gappisti, la rete clandestina di Gian Giacomo Feltrinelli. Noi avevamo programmato questa presentazione a giugno, quando abbiamo messo su il Salone del Libro Politico, e l'archivio ha partecipato a questo salone allestendo una mostra dell'editoria, del materiale che abbiamo chiamato ai tempi dell'Orda d'Oro, con tutto il materiale che abbiamo in archivio, sia che abbiamo accumulato dopo, sia che il materiale ereditato da Primo. Ed era materiale che appunto riguardava gli anni 60, 70, gli anni 80, e quindi con uno spettro rispetto ai movimenti, andava appunto dalla lotta armata, dai Gap Feltrinelli alla 22 ottobre, fino a movimenti punk, al movimento delle donne, eccetera. È una mostra che abbiamo tenuto per tutto il mese di giugno, e dentro quel mese di giugno abbiamo pensato a una serie di presentazioni, e questo era uno dei libri era stato programmato. Poi c'è stato Giorgio che si è fatto male e abbiamo rinviato la presentazione, e quindi oggi siamo qui. Io sul libro dico poche cose, perché, e dopo vi dirò perché il libro ha una genesi per certi versi curiosa e per certi versi eccezionale nella sua elaborazione. E perché è curiosa e eccezionale? Perché Vittorio, che come si dice nell'introduzione di cognome fa Battistoni, decide dopo 50 anni di raccontare la sua esperienza di partecipazione ai GAP e la sua esperienza di relazione politica, di conoscenza personale con Gian Giacomo Feltrinelli, no? E contattando Derive, e Giorgio Moroni raccoglie questa testimonianza in una intervista. E per uno storico che si occupa di questo, che si era già occupato, Davide, della lotta armata a Genova, dicevo prima, a lui è come se si allineano i pianeti, si trova a fare una ricerca con un materiale non di poco conto, insomma, no? E quindi Vittorio, Giorgio e poi la ricerca di Davide ha costituito il libro. E perché dico che io non faccio? Perché ce li abbiamo tutte e tre qua, è come rubare il mestiere a qualcuno. Quindi io comincerei da Davide, perché abbiamo discusso di alcuni elementi centrali e poi loro parleranno di quello che vogliono. E a Davide volevo incominciare a chiedere che la sua ricerca comprende e trascende l'intervista di Giorgio a Vittorio, perché si tenta di indagare la figura stessa di Gian Giacomo, e incominciando a demolire quei stereotipi che si sono creati su Gian Giacomo nel corso del tempo, e tenti di restituire, di ridare un'identità politica, e questo ti volevo chiedere come elemento principale della tua ricerca. Ringrazio la presentazione, ringrazio le persone presenti. Sì, allora, il libro è nato esattamente così, è la prima volta che mi capita che anziché andare a caccia di fonti, le fonti in qualche modo mi hanno intercettato. Io avevo appunto lavorato sulla lotta armata a Genova, quindi avevo intercettato in parte l'esperienza del gruppo 22 ottobre e in parte quella dei GAP, però non l'avevo approfondita poi così tanto. E quindi quando mi è stato proposto da Giorgio che c'era la possibilità di lavorare, c'era la testimonianza di Vittorio, che è una testimonianza importante, appunto Giorgio si erano già incontrati, aveva già raccolto la sua testimonianza, una testimonianza scritta, poi abbiamo avuto anche altri incontri, e intorno alla testimonianza di Vittorio ho cercato di costruire quella che è stata l'esperienza dei GAP. Inevitabilmente l'esperienza dei GAP appunto non è centrale ovviamente la figura di Feltrinelli, la ricerca non è solo sulla figura di Feltrinelli, vuole restituire anche, dare come dire, la giusta rilevanza alla dimensione, alla rete che aveva costruito, però non si poteva prescindere chiaramente da quella che è la figura di Gian Giacomo Feltrinelli. E questa è stata anche l'occasione per l'appunto, come dicevi, di in qualche modo smontare qualche luogo comune su Feltrinelli. È sempre stato, sia all'epoca, ma poi anche successivamente in realtà, perché poi non è stata neanche poi recuperata a distanza di anni poi la figura di Feltrinelli in qualche modo. È sempre stato visto un po' come un ingenuo finanziatore di tutto ciò che si muoveva a sinistra, dei gruppi, i gruppi armati, i gruppi rivoluzionari. E un'altra, come dire, luogo comune su Feltrinelli era che appunto fosse uno ossessionato dalla paura del golpe, dalla paura del colpo di Stato, fosse un allucinato in qualche modo. In realtà probabilmente è stato uno di quelli che, come dire, lo ha invece percepito meglio questo timore, un timore che in realtà attraversò tutto lo spettro della sinistra italiana e non solo. In realtà in alcuni documenti si trova, per esempio, alcuni documenti d'uso interno del PC, si trovano documenti su come proteggere le sedi in caso di colpo di Stato. Non era una fantasia di Feltrinelli. Poi il fatto che dormivano fuori casa, non stavano più di due notti nella stessa abitazione, quindi, come dire, era un timore trasversale. Poi il fatto che materialmente colpo di Stato non ci sia stato, questo non può consentire di derubricarlo a una paura, un'ossessione. Feltrinelli era molto consapevole di questo, era consapevole un po' per la sua figura personale, direi quasi, perché comunque aveva contatti molto variegati, molto importanti, molto ampli, sia nel mondo politico, aveva una vicinanza con Pietro Nenni, con Secchia. Quindi, come dire, da un lato aveva informazioni di prima mano di quelle che erano state le manovre anche pre Piazza Fontana. Non a caso appunto lui i suoi primi opuscoli li pubblica quando comincia a uscire notizia sull'Espresso, su uno scoop dell'Espresso, sul cosiddetto piano Solo, il tentativo appunto di, che nel 67 esce questo scoop, risaliva a 3 anni prima. E lui però aveva già queste informazioni, quindi da un lato aveva informazioni che non erano conosciute, diciamo, non erano note all'opinione pubblica, dall'altro aveva una sensibilità sua personale, perché si vide coinvolto non solo con Piazza Fontana, quindi con la strage di Piazza Fontana, ma in realtà con le bombe precedenti, quelle del 25 aprile del 69 e poi quelle sui treni che non causano, sui treni ad agosto che non causano morti per puro caso, però causano diversi feriti. Lui già lì era stato inserito tra appunto i possibili mandanti, i possibili colpevoli, con accuse poi appunto non avevano nessun elemento, quindi sulla base di un volantino che venne trovato a casa sua, un volantino di una realtà anarchica, che a sua volta si pensava fosse coinvolta in queste bombe, e quindi no, per... Ah, sì, scusate. E quindi appunto lui era in contatto con questa realtà e coinvolsero anche lui. Quindi, come dire, si sentiva, da un lato aveva intuito qual era il disegno pre-Piazza Fontana, in realtà. Piazza Fontana diventa la conferma, ma aveva intuito che c'era un disegno tale per appunto... quello che poi è stata la strategia della tensione, cioè creare il panico e addossare la colpa sulla sinistra. Lui questo ne era ben consapevole e lo scrive chiaramente nei testi, negli opuscoli che pubblica a suo nome, che sono prima di Piazza Fontana, però non descrive esattamente come potrà essere il golpe. Lui descrive una serie di possibilità di come si sarebbe potuto attuare un eventuale colpo di Stato, e questo era molto lucido. Poi che il corso della politica non ci sia stata una svolta apertamente autoritaria, apertamente reazionaria, ma in realtà poi la politica, diciamo, a livello di palazzo, a livello parlamentare, vada in realtà in un percorso che è diverso, questo è vero, però quel timore era assolutamente legittimo. E Feltrinelli fu uno dei primi che lo, in qualche modo lo intercettò e ne parlò esplicitamente. Quindi questa ossessione, appunto, anche dopo è passato come quello un po' ossessionato. In realtà non era ossessionato, era, come dire, più sensibile di altri, sia per esperienza personale, sia appunto anche per capacità e sensibilità politica. E il progetto dei GAP si innesta in questo, il tentativo di costruire una rete capace di resistere, di tenere botta, diciamo, a una possibile prima ondata reazionaria, quindi a carattere difensivo si potrebbe dire, ma in realtà che fosse poi pronta anche ad agire, fosse anche pronta a controbattere, fosse anche pronta a colpire non solo chi materialmente avrebbe attuato l'eventuale, appunto, golpe o svolta reazionaria, ma anche per esempio chi vi era dietro, quella borghesia che finanziava questi gruppi. E in parte, appunto, alcune delle azioni che compiranno il gruppo 22 ottobre in collaborazione con alcuni gappisti genovesi guardano proprio questo, a colpire i finanziatori del golpe. Quindi l'idea era un po', come dire, la ricerca è nata anche con questo spirito, ho provato anche a ricostruire quello che fu il rapporto di Feltrinelli con i gruppi della sinistra rivoluzionaria, perché anche in questo caso si è sempre stato descritto come un po' un ingenuo, chiaramente ricchissimo, un ingenuo finanziatore dei gruppi. In realtà sicuramente mise a disposizione mezzi sia economici sia proprio materiali, però non fu questo così ingenuo e miliardario che lanciava soldi a pioggia. Ebbe dei rapporti che non solo furono mediati da questo aspetto, ma furono rapporti veri e propri, rapporti politici. Li ebbe sicuramente, appunto, come era già emerso, con Potere Operaio, con Lavoro Illegale, li ebbe col gruppo 22 ottobre a Genova, li ebbe a Trento, per esempio. Le persone che più si avvicinano ai GAP ruotavano intorno alla Lotta Continua, quindi uno spettro anche abbastanza variegato. Ebbe rapporti diretti con le Brigate Rosse, e il suo progetto era quello di costruire una rete in cui coinvolgere o singoli militanti, alcuni mantenevano anche una sorta di doppia militanza, o porzioni di gruppi di realtà rivoluzionarie di quel periodo, coinvolgere nel suo progetto, ecco. Quindi fu un rapporto politico. Poi chiaramente il fatto che ci fosse meno difficoltà a reperire materiale, questo sicuramente c'era, ma non fu solo un rapporto di mero finanziamento, ecco. No, Davide, quello che ti volevo chiedere è questo. Dal tuo libro si capisce che non fu mai un'organizzazione quella dei GAP Feltrinelli, però una rete che funzionava, no? Oggi diremmo per relazioni personali, no? Per nodi di rete. E tu sei riuscito a capire il sistema di relazioni che Gian Giacomo riuscì a tessere, e tra questi poi dopo sentiremo Vittorio, e che fece parte di questa rete. Sì, quello appunto di GAP io lo definisco un gruppo atipico, forse un non gruppo, forse non sono, paradossalmente non sono esistiti GAP, ma sono esistiti gappisti. Nel senso che l'idea era quella, oggi si direbbe un network, però sì, una rete di militanti, di porzioni di militanti che chiaramente facevano riferimento a Gian Giacomo Feltrinelli o a persone a lui vicine. Penso ad esempio al caso, appunto, anche grazie poi a Vittorio, penso al caso, al nodo, diciamo, gappista genovese, in parte quello di Chiavari, una figura centrale fu Giambattista Lasagna. Giambattista Lasagna fu un collaboratore di Feltrinelli, fu un collaboratore che collaborò sia politicamente, ma anche attraverso una sua rete di contatti portò militanti o possibili militanti o persone interessate, appunto, al progetto dei GAP. E un po' funziona così, tant'è vero che le varie realtà dei GAP attive nelle varie città, appunto penso a Milano, Genova, in parte Torino ma poco, in Trentino, a Trento, erano in realtà molto diverse tra di loro. Come dicevo prima, appunto, a Genova vi era il peso forte del mito della resistenza tradita, alcuni ex partigiani, per esempio, erano centrali, che magari erano meno centrali in altre realtà, quindi non si può dire, non era neanche omogeneo da questo punto di vista. Penso alla zona comasca, tutto il rapporto con il lavoro illegale. Quindi l'idea era tramite... Esatto, Cecco Bellosi, sì, l'idea era di costruire una rete attraverso o contatti personali dello stesso Feltrinelli o attraverso dei contatti di alcuni suoi collaboratori più stretti, che potesse in qualche modo attivarsi nelle varie realtà indipendenti una dall'altra, perché poi non avevano grandi contatti, non c'era un comitato centrale in qualche modo che Feltrinelli aveva alcuni collaboratori, e poi era una rete che agiva a seconda delle necessità delle varie realtà, ma che poteva essere potenzialmente pronta anche ad agire in caso appunto di colpo di Stato. In questo senso fu una rete, ecco, più che un gruppo, che non aveva neanche poi le caratteristiche tipiche del gruppo, nel senso che necessitava anche, come dire, era un gruppo che faceva pratiche anche armate, però un gruppo armato bene o male va avere una certa, come dire, una certa, un nucleo dirigente spesso, una certa dotazione di armi, una serie di basi. In realtà Feltrinelli aveva queste, ma spesso le metteva a disposizione anche di altri gruppi, ecco. Quindi l'idea era di costruire una rete che potesse muoversi ed agire o a seconda dei casi o in contemporanea, qualora fosse stato necessario. Volevo chiedere a Giorgio, puoi parlare anche di là, Giorgio, perché leggendo il libro uno rimane un po' basito su alcune cose, cioè Giorgio tramite derive si presenta a casa di questa persona e si trova di fronte a uno che dice: io ero uno che faceva l'ingegnere e lavoravo per radio, ho fatto Radio Gap, eccetera. Lì la prima sensazione in termini di memoria che è tornata, anche perché tu ci vivi a Genova, conoscevi un po' questa storia, ma ti sei trovato davanti a materiale vivo, insomma. Sì, in realtà io colgo l'occasione per raccontare anche qualcos'altro che ha a che fare con questa storia e che ha a che fare anche con il destino, perché la storia dei GAP e del 22 ottobre, come voi sapete, nasce a Genova all'inizio degli anni 70, nasce nel 69 ed è una esperienza di lotta armata, la prima in Italia, come voi sapete, completamente autoctona, che nasce all'interno di una sezione del Partito Comunista, la Rino Mandoli. Rino Mandoli è un partigiano tra quelli assassinati dai fascisti dopo il rastrellamento del Turchino, credo, poco dopo. E in effetti della 22 ottobre fanno parte alcuni partigiani, cito Druge Porcu, cito Silvio Gibelli soprattutto, ma c'è anche qualcun altro, sì, sono almeno 3 o 4 ex partigiani. Fanno parte di questo gruppo che viene individuato dopo la sfortunata e tragica rapina del 71, direi, dall'istituto IACP, che si conclude con la morte del fattorino Floris. Nella Lambretta, come ricordate, ci sono Augusto Viel, che è l'autista, che poi verrà trovato a Milano, verrà individuato a Milano in uno dei ricoveri, no? Gestiti dalla rete di Feltrinelli, e arriverà, ecco, questo è un anticipo, e arriverà a Milano attraverso il gruppo di Gianfranco Faina, che è un personaggio abbastanza chiave poi nelle dinamiche successive alla fine di questo gruppo. Però quando il gruppo viene smascherato, viene individuato, viene di fatto annientato dopo questa rapina, la narrazione ad opera del Partito Comunista è tranchant, cioè si tratta di un gruppo di grassatori, di rapinatori, di criminali, di delinquenti. Nessun cenno al fatto che gran parte dei loro militanti, ripeto, erano stati, tra questi Rinaldo Fiorani, per esempio, iscritti al Partito Comunista, con, nel caso di Rinaldo Fiorani, anche con, mi pare che fosse stato in passato segretario della FIGC, ecco, all'interno di quella sezione. Questo è un aspetto che viene occultato, vengono rappresentati come criminali. Il primo che a Genova si muove per contrastare questa narrazione è il gruppo che fa capo a Gianfranco Faina. Gianfranco Faina ha facilità certamente di conoscere la realtà, perché conosce Feltrinelli, conosce Silvio Gibelli, conosce Lazzagna, e quindi ha facilità di capire chi sono realmente. Ecco, non c'erano rapporti politici in precedenza, ma in quel momento l'università a Genova, via Balbi, è occupata, e Gianfranco Faina è decisivo nel condurre, nell'orientare il comitato di agitazione di Balbi, di cui all'epoca io facevo parte, nella difesa, nel processo di appello, perché ci fu un processo per direttissimo immediato, quindi siamo ormai nel 72, nella difesa della 22 ottobre. Nasce il comitato di difesa della 22 ottobre, che darà luogo a ad un documento visivo, un audiovisivo, che è composto da un testo e da molte diapositive, da una ricostruzione che chiamammo Contro il processo Rossi, con il quale girammo l'Italia, ecco, da Venezia a Firenze a Roma, eccetera. Questo per arrivare a dire che cosa? Ecco, che da parte mia e da parte del gruppo, inizialmente di Potere Operaio, poi dell'Autonomia Operaia, che collaborò con Gianfranco Faina durante le occupazioni di Balbi, ci fu da subito, dall'inizio, una grande internità alle problematiche generate da questo episodio della lotta armata, così rappresentato già all'epoca come episodio di criminalità comune. Noi facemmo questo lavoro, che durò nel tempo e che poi noi facemmo diverse, demmo luogo a diversi eventi, fino a quando io mi sono imbattuto credo nel 2002-2003, in una tesi di laurea scritta da Paolo Piano, uno studente, sulla 22 ottobre. Una tesi fatta molto bene, per cui produssi assieme ad Anna Marsili, era una piccola casa editrice indipendente, questo libro, che poi venne, piacque molto a Sergio Bianchi, e quindi venne ripubblicato da Deriva Prodi. Sergio Bianchi un giorno mi telefona e dice: ma mi è arrivata una lettera estremamente interessante, ma se tutto questo è vero, siamo di fronte ad un caso eccezionale, puoi verificare? Conosci Vittorio Battistoni? Io non conoscevo Vittorio Battistoni, e quindi sono andato a trovarlo a Cabanne, in una zona, ecco, io vorrei spendere due parole sul milieu, sul chiavarese. Ecco, noi parliamo di Genova, dovremmo parlare anche di Chiavari. Ecco, a Chiavari, io non stiamo a citare il famoso congresso, la riunione, se ne è parlato, però è una zona partigiana, no? È una zona, cioè lì è nata la Cichero, no? Ecco, quindi ripeto, la resistenza in Liguria è nata nel chiavarese. E Lazzagna, il comandante Carlo, ha operato in quelle zone, e molti partigiani vengono da quelle zone, molti neopartigiani, uso questa espressione, vengono da queste zone. Quindi è stato citato già Emilio Perissinotti, altri non vengono citati, perché in realtà, ecco, si parla di rete, ma poi in realtà se uno legge il libro di Davide non ci sono molti nomi, perché, beh, questo secondo me è un aspetto estremamente positivo, perché questa è una, la rete dei GAP era una rete trasversale di cui facevano parte molti militanti del Partito Comunista, che poi non, con la fine di Feltrinelli evidentemente hanno smesso di farne parte, ma non ne hanno mai parlato. Devo dire, è anche interessante il fatto che il fenomeno del pentitismo è completamente assente nella storia della 22 ottobre, anche se tutti sono stati arrestati, ma nessuno si è pentito. Ecco, anche il loro riserbo continua, secondo me, è molto eloquente, ecco, della loro autenticità neopartigiana. Dopo 10 minuti avevo capito che mi trovavo di fronte ad un... ad un gappista autentico, ad un compagno straordinario, ad un comunista eccezionale, ed è stato un incontro sicuramente emozionante, soprattutto quando poi Vittorio mi ha portato al piano superiore e mi ha detto: questa è Radio Gap, e mi ha mostrato Radio Gap, e me l'ha anche data, ecco, no? Me l'ha anche dato perché la conservassi. Adesso Radio Gap è stata consegnata qualche mese fa a Carlo Feltrinelli, che l'ha richiesta, e quindi presumo che prima o poi, se non già adesso, faccia parte dell'archivio della Fondazione Feltrinelli, quindi è tornata a casa sua, giustamente. Ecco. Carlo Feltrinelli ha molto apprezzato questo libro di Davide Serafino, questo è importante. E c'è stato un incontro sicuramente emozionante tra Carlo Feltrinelli, suo figlio Giacomo e Vittorio Battistoni, e proprio a Chiavari, di scambio di vicende, di storie. E io credo che ci si debba domandare anche del perché oggi parliamo di Radio Gap e perché il libro, dal mio punto di vista, è attuale, però è possibile che abbia occasione di parlare anche una seconda volta questa sera, per cui mi fermo qui per il momento. Prima a pranzo discutevamo con Vittorio e dicevamo che chiunque, presumo anche voi, la prima domanda che farebbe: ma come ti è venuto in mente dopo 50 anni di raccontare questa storia? Che cosa ha fatto scattare questa molla dopo 50 anni che nessuno sapeva nulla? E lui mi ha detto: ti rispondo, preciso, ti rispondo. Sì, è stato che... E mi è capitato di rileggere questo libro di Paolo Piano e mi è venuto in mente che io a suo tempo, quando è uscito il libro, avevo scritto una lettera indirizzata a questo Paolo Piano, però non sono mai riuscito a fargliela pervenire perché non sapevo dove era, dove, che indirizzo avevo, ho cercato qualcosa su internet, non ho trovato niente, e allora poi avevo lasciato perdere. Poi un giorno ho visto che l'editore era Derivea Prodi di Roma. E allora ho scritto alla casa editrice dicendo che io volevo dare uno scritto, un manoscritto a Paolo Piano, e se potevo mandarlo a loro, che glielo facessero pervenire, perché io non sono riuscito a trovare l'indirizzo di questo Paolo Piano. E loro mi ha risposto Bianchi, mi pare che si chiami di cognome, che era forse l'editore, eccetera, e insomma mi ha messo in contatto con te proprio, sì, ecco. E questa lettera io l'ho mandata a lui, allora, a Giorgio, se mi ricordo bene, perché ora poi tutto non è che mi ricordi proprio per filo e per segno. Vabbè, insomma, questa lettera io l'avevo scritta apposta perché volevo dare una mano, diciamo così, all'autore di questo libro sulla 22 ottobre, dargli una mano nel tentativo di dimostrare che questi non erano solo una banda di delinquenti, di rapinatori e cose simili, ma che avevamo fatto assieme, io con loro, molte azioni che non avevano affatto l'aspetto di operazioni di banditi, ecco, tra cui una che forse come dimensioni era stata la principale, le altre erano, non so, incendi, cose simili, che era stata anche lì l'incendio di un camion carico di materiale diretto alle basi americane nel Vietnam, che gli avevamo dato fuoco a Bolzaneto, dove c'era combinazione, dove lì sopra c'era quella caserma che poi è diventata famosa, la Diaz. E niente, volevo, su questo io potevo dargli all'autore Piano delle precisazioni assolutamente inequivocabili e controllabili, perché questo incendio, anche se sui giornali era stato pressoché ignorato completamente e ancora di più ignorato al processo quando li hanno condannati questi, però diciamo negli archivi dei poliziotti ci doveva ben essere questo qui, perché dopo che il camion ha preso fuoco mi hanno detto che c'erano, nel giro di 10 minuti c'erano lì poliziotti, servizi segreti, vigili urbani, ogni sorta di questurini eccetera, e il giorno dopo sui giornali zero assoluto. Io potevo dargli delle inequivocabili informazioni a questo Paolo Piano, che le ho scritte in quella lettera lì, perché in pratica quell'operazione lì l'avevo fatta io personalmente, però insieme a me c'erano anche loro, c'erano. Materialmente non hanno fatto granché, perché non è che ci fosse da fare del lavoro da fare in 12. Il lavoro che c'era da fare l'avevo fatto io e bastavo anche da solo, però sulla macchina c'erano anche loro. Emilio Perissinotti guidava la macchina era la mia, un 850, e seduto a fianco a lui c'ero io, e dietro c'era uno che io non sapevo come si chiamasse, ma che poi è risultato essere Fiorani, quello con gli occhiali, Rinaldo Fiorani, e dietro c'era un'altra macchina con altri 3 o 4 che probabilmente erano i vari, perché io con questi avevo già collaborato molte volte, però di loro non conoscevo assolutamente il nome di nessuno, meno che mai l'indirizzo, e anche loro non sapevano assolutamente come mi chiamassi io. Questa è anche una delle ragioni per cui non sono mai finito in galera, perché a me non mi conosceva nessuno. Io conoscevo soltanto Emilio Perissinotti, l'avvocato Lazzagna e in seguito Feltrinelli, le uniche 3 persone che sapevano come mi chiamavo e dove abitavo. Gli altri, vi dico, questi qui del 22 ottobre, li conoscevo tutti, ma nessuno sapeva come si chiamasse. E ora, andando avanti, cosa stavamo dicendo? Sì, ecco che... E quindi è saltato fuori quando poi ho trovato questa lettera, appunto, e alla fine l'ho mandata forse a te, o non so, alla casa editrice, sì, alla casa editrice, poi insomma in qualche modo mi ha messo in contatto con loro, con Giorgio, che è venuto a casa mia assieme a Massimo, e niente, e poi è venuto fuori tutte queste cose, è venuto anche fuori cosa chi ero io, ecco, come dice, come intitolato mi pare che il Corriere della Sera, l'uomo della bomba. C'era questo titolo sul Corriere della Sera, o forse c'è ancora se vai a guardare il mio nome su internet. Vittorio, infatti tu nell'intervista con Giorgio racconti la relazione, cioè l'amicizia anche con Feltrinelli fino alla mattina poi spiegare come è avvenuto questo incontro e come... L'incontro con Feltrinelli, appena lui, subito dopo le bombe di Piazza Fontana, è diventato latitante, è diventato clandestino, ecco. Clandestino è stato circa poco meno o poco più, non mi ricordo, di circa un mese. Io nel frattempo l'avevo conosciuto lì a casa dell'avvocato Lazzagna a Genova, e lì l'avevo conosciuto, E era ancora lì quando abbiamo fatto la prima trasmissione con questa Radio Gap, che materialmente l'apparecchiatura l'aveva costruita un tedesco, che si chiama, penso che sia vivo perché era ben più giovane di me, che si chiama Wolfgang Mayer, che era venuto giù insieme alla sua ragazza, che si chiama Heide Marie Klein. E cosa dice? Ah sì, a casa di Lasagna abbiamo progettato, diciamo, questa trasmissione. Nel frattempo era arrivato il tedesco con un apparecchio che è quello che poi è finito a casa mia e che ha dato a Giorgio. La prima trasmissione che abbiamo fatto, io guidavo la macchina, che era una Fiat 1004 affidata dalla Hertz, quando la Hertz era lì vicino sopra Genova, sopra la stazione di Brignole, in quella piazza che c'è lì che si chiama, beh, ora non mi ricordo, comunque lì sopra Brignole c'era la succursale, come dire, gli uffici della Hertz. Io avevo affittato per 2 giorni questa macchina e su indicazioni del tedesco era stata opportunamente attrezzata con la trasmittente, e dico, quella sera in cui abbiamo fatto la prima trasmissione io guidavo la macchina, a fianco a me c'era il dottor Palissinotti e sul sedile di dietro c'era il tedesco Wolfgang, che non parlava assolutamente italiano, ma io parlavo un po' di tedesco, e poi soprattutto la ragazza Heide Marie era appassionata dell'Italia. Infatti poi è venuta in Italia, c'è stata tutta l'estate, a fare un corso per migliorare l'italiano. Vabbè, ora questo non c'entra granché. Niente, e poi dopodiché, quando Feltrinelli è andato via da casa del Lasagna, dell'avvocato, l'ho accompagnato io, siamo andati a fare un giro per l'Italia, Firenze, Roma, Bologna, insomma varie città. Poi questo mio rapporto con Feltrinelli è andato avanti fino alla mattina del giorno 14 marzo, quando è morto. Io l'ho lasciato a mezzogiorno circa, cioè lui mi ha lasciato a mezzogiorno vicino a una stazione della metro, e alla sera alle 10... Io gli ho portato perché ce l'avevo io, ma non era roba mia, era stata roba che io avevo prelevato, avevo organizzato un'operazione, diciamo, per un furto in un cantiere stradale, dove avevamo preso un paio di quintali, forse anche qualcosa di più, di Titan si chiamava forse ancora, e alcune centinaia di metri di micia detonante, e lì eravamo presenti io, l'avvocato Lasagna e Persinotti, oltre altri 4 o 5 che molto probabilmente io non li conoscevo, ma erano quelli pur sempre che io non li conoscevo di nome, diciamo, erano quelli del gruppo di Piazzale Adriatico, 22 ottobre. E io c'ero, insomma, mi aveva chiesto l'ultima volta che ci siamo visti di portargli questa una ventina di chili di questo Titan alla stazione di Lambrate. E io sono andato su il 14 marzo e, come dico, a mezzogiorno gli ho consegnato, preso un treno che c'è alla mattina da Chiavari che ferma a Lambrate, perché lui non voleva andare alla centrale perché diceva che era pieno di poliziotti. E sono sceso a Lambrate con la valigia, siamo saliti su un furgone che era un Renault Estafette, e siamo andati ancora fino a Segrate, fino a dove c'era questo, mi ha detto, tanto che chiacchieriamo, andiamo fin giù che voglio vedere ancora una particolare, e mi ha portato sotto a questo traliccio, è sceso, ho preso forse qualche misura, insomma guardato un po', poi è risalito, siamo per strada, io gli dicevo che, io gli spiegavo che, ma questo gli avevo già detto prima, non molto tempo prima c'era stato il primo sequestro di persone in Italia, nella persona dell'ingegnere Hidalgo Macchiarini, il capo del personale della Siemens, mi pare, perché credo che la cosa l'avesse organizzata Moretti, che l'ho conosciuto anche quello, ma senza sapere come si chiamava, e né lui sapeva come mi chiamavo io. E io gli dicevo che secondo me questa era una cosa, che queste erano le cose da fare, colpirne uno per educarne 100. Questi criminali, questi delinquenti, sedicenti ingegneri, poi invece sono il capo degli aguzzini. Ingegnere ero io che ho costruito centinaia di macchine. Questi erano soltanto dei criminali che dovevano vivere in un mondo in cui quando uscivano di casa la mattina non dovevano essere certi di tornare alla sera, ma dovevano pensare ogni volta che uscivano di casa che forse poteva essere l'ultima volta. Questi assassini, questi criminali. E lui tutto sommato, mentre appunto gli dicevo che quello lì di mettere la bomba dentro, sotto a un traliccio, pur con le dovute distinguo, le dovute distanze, assomigliava un po' troppo a quello di mettere una bomba su un treno, perché la bomba sul treno ce la mettono i veri terroristi, cioè lo Stato, i poliziotti, i segreti segreti, Umberto Amato come il capo dei delinquenti, e che era una cosa che non mi piaceva. Lui non ha insistito assolutamente, va bene, tant'è vero appunto che quel giorno lì non ne abbiamo nemmeno parlato, perché io di questo Macchiarini ne avevo parlato la penultima volta che l'avevo visto. Quel giorno lì abbiamo fatto questo giro, siamo arrivati sotto a questo traliccio, lui ha dato un po' un'occhiata, non so cosa, e poi mi ha portato dalla stazione della metropolitana, e alla sera era finita. E poi io comunque sono andato avanti con altri gruppi, sempre. Scusa Vittorio, rispetto a... Tutto non me lo ricordo mica, però dimmi. Rispetto a quello che avevi detto appunto a Feltrinelli del sequestro Macchiarini, lui cosa ti rispose? Alla fine praticamente mi ha dato ragione, però ha detto che insomma quando si fanno delle cose che ci possono essere molte motivazioni e che non bisogna pensare soltanto a quella più immediata e più ovvia. Anni dopo, in seguito, ho capito che cosa voleva dire, perché in quei giorni ci doveva essere un incontro tra esponenti vari della lotta armata, di lotta continua, di potere operaio, di questi gruppi qui. Lui voleva presentarsi come... c'era un problema di leadership, voleva presentarsi avendo alle spalle un gesto clamoroso che avesse fatto... molto, come dire, molto clamore, ecco, che intendeva spegnere Milano in poche parole per poco magari, ma però questo lo avrebbe molto favorito nell'acquisire la leadership di questi, in questi gruppi, questi movimenti, ecco. Quello lì era la motivazione, in seguito mi sono reso conto, era la motivazione principale. Tant'è vero, ti dico che tutto sommato del fatto che non... perché mai spegnere la luce? È visto come un gesto gratuito così. Non, certamente non è così di vero, vero terrorismo come quello di mettere una bomba su un treno o in una banca o in una stazione. E quelle sono operazioni tipiche dello Stato, dei veri terroristi. Però andava un po' in quella direzione. Lui, ti dico, alla fine più o meno mi ha dato ragione, ho detto che c'era anche delle altre, bisogna tenere conto anche di altre situazioni, di altre cose che non sono così apparenti ma che esistono, insomma, vabbè, ecco. Probabilmente dal suo punto di vista spegnere la luce significava una sorta di sabotaggio, sì, in grande, sì, stile, sì. Ecco, sabotaggio in grande stile, bloccare la flusso di energia elettrica, dimostrare di avere la possibilità di fare dei gesti anche molto clamorosi, molto, ecco. Sì, perché poi questo tipo di, appunto, di azioni con le tralicci, se lo pensiamo, non abbiamo il senno di poi, però magari associato a importanti manifestazioni, per esempio, importanti scioperi, come dire, era un gesto in qualche modo, no, bloccare la flusso di energia elettrica, di supporto, poteva avere un suo impatto, certamente lo fece anche per, come dici, questo per... comunque io queste cose le dicevo per giustificare il mio comportamento, perché non ci sono andato, ecco, perché gli avevo già detto che non ci sarei andato. Sì, poi è vero che in quel periodo, appunto, anche dopo, quando poi emerge, appunto, muore Feltrinelli, emerge quello che stava facendo, l'idea era appunto che il tritolo era fascista, ecco. Sì, e quindi sì, anche forse in quello un pochino l'identità di Feltrinelli, molti si ne prendono un pochino le distanze, perché comunque rimaneva quell'immagine, ecco, di... e quindi in qualche modo probabilmente ha influito, anche se poi appunto non andava a colpire chiaramente nessuna persona. Sì, non colpiva persona, direttamente, ecco, le persone, però... Non so se volevo dire qualcos'altro, ora non mi ricordo. No, sì, potrei descrivere le lezioni di Radio Gambo? No, se vuoi, l'hai fatto prima con Blackout, ma secondo me è di sicuro impatto se vuoi descrivere le prime azioni di Radio Gap. Sì, la prima in assoluto, quella a Genova, sì, quella fatta con questa ormai famosa macchina che era nella mia soffitta, che c'è, adesso ce l'ha Carlo, Feltrinelli, penso appunto, c'è una sorta di fondazione Feltrinelli dove raccolgono. So che ci sono, per esempio, c'è una bandiera della Comune di Parigi del 71, e ci sono, cioè, oltre che libri, ci sono cimeli anche, ecco, penso che l'avrò messo lì dentro. E come funzionava, Vittor? Che cosa facevate praticamente? Praticamente, te l'ho detto, c'era questa radio, era un apparecchio, un contenitore lungo così, a sezione rettangolare. Poi c'era l'alimentatore che serviva per trasformare la corrente a 12 volt della batteria della macchina nella corrente alternata a 67 volt e mezzo per l'alimentazione delle valvole, perché l'apparecchio era un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, quindi era a valvole quando non esistevano ancora i transistori. Era valvole termoioniche come tutte le radio dell'epoca, e bisognava l'uscita dall'apparecchio veniva collegata all'antenna della radio della macchina, mentre invece l'alimentazione era attaccata alla batteria a 12 volt della macchina. L'oggetto più complicato era l'alimentatore, che era una scatola metallica così, che era quella che faceva il tedesco. Poi era trasformata per arrivare sulla frequenza della TV, allora era del primo canale, mi pare che era un'epoca in cui ce n'erano già due canali, comunque quello lì andava sul primo canale, che era quello più importante, più seguito. E questo apparecchio riesce in un raggio modesto, ma manco poi tanto. Io ricordo di aver fatto delle trasmissioni, almeno uno o due o tre, che si sono sentite benissimo in tutta la Val Bisagno, e che avevo fatto io personalmente si sale su la chiesa di c'è una chiesa con il piazzale lì fuori che si vede giù tutta la Val Bisagno, una vista magnifica di Santa Maria. Santa Maria al Monte, quella lì, ecco. Si arriva su, c'è un bel piazzale dove, con questa vista magnifica. Io ho fatto un paio di trasmissioni da lì, dirette giù, che ci sono sentite in tutta la Val Bisagno, lì in una zona. Comunque, in una zona comunque ristretta, riesce questo apparecchio a salire sopra come potenza alla radio ufficiale, quella della RAI, perché quella della RAI è una stazione potentissima ed efficiente, però localmente il segnale arriva relativamente debole, più che sufficiente per alimentare per un apparecchio televisivo, no? Ma molto modesto come potenza. Questo aggeggio qui con la macchina, in un breve raggio, irradia una potenza che è enormemente superiore, tanto che riesce a coprire quello della RAI, e si riesce a sentire. E a interrompere Tito Stagno. Interrompere Tito Stagno. Il TG1. Sì, il TG1. E di questi. E la prima cassetta di chi era la voce? La prima cassetta, la voce era personalmente di Feltrinelli, l'ha incisa lui. E purtroppo non so che fine abbia fatto, perché avrei dovuto avercela io, perché ci avevo tutti i componenti. Eppure la voce di Gian Giacomo Feltrinelli era facilmente riconoscibile. Era certamente riconoscibile, ancora oggi la riconoscerebbe chiunque lo abbia conosciuto. Ne riconoscerebbe la voce. Ma Gian Giacomo Feltrinelli amava mettere la firma nelle cose che faceva, un po' come il possesso come la pistola di Monica Hertl, no? Sì, quella del coso là, del Quintanilla. Quintanilla, sì, così era venezuelano, o colombiano, forse boliviano. O boliviano, che ci ha lasciato la pelle. E beh, queste erano operazioni che a me sembravano molto positive, molto istruttive. Con la bomba del tralicio me lo sembrava di meno, ma un po' questione di... Bah, insomma, sarebbe interessante oggi immaginare una nuova Radio Gap, ecco, questa è un po' la provocazione, perché cioè, viviamo in una situazione di completa disinformazione, e qualcosa che riesca a insinuarsi, a rompere questa coltre di disinformazione interrompendola, perché questo poi la chiave di Radio Gap, ecco, qualche hacker etico, se ci si dedicasse seriamente. Sì, ci vorrebbe qualcuno, ripeto, che non posso essere io, non avrei potuto essere nemmeno allora, perché io di elettronica me ne intendo poco e niente. Al massimo sono arrivata all'elettromeccanica, perché io mi sono laureato nel 66, mi pare, giù di lì, quando l'elettronica cominciava proprio, si cominciava a parlare di transistori, come si chiamano, questi componenti, per cui non me ne intendo. Io sono arrivato al massimo all'elettromeccanica, cioè l'energia elettrica usata a usare a gestire la potenza che si può trasmettere elettricamente, mentre l'informatica sarebbe la scienza dell'informazione, della trasmissione dell'informazione. Come dico, nasceva quando io uscivo dall'università, poi ho avuto sempre da fare, ho fatto un mucchio di mestieri prima di mettermi a fare l'ingegnere. Ho fatto per 2 anni il gestore di uno stabilimento balneare, poi, insomma, e poi mi sono messo a fare l'ingegnere per davvero. Ho costruito un mucchio di macchine, un mucchio veramente. Te lo faccio vedere poi questo pacco di fotografie, alto così, che riguarda un terzo di quello che ho fatto. A me piace ricordare Carlo Feltrinelli durante l'incontro a Chiavari, che le sue parole, quando dice: più penso alla vita di mio padre, più ne rimango ammirato. Sì. Beh, A parte lo splendido libro che lui ha fatto, che penso alcuni di voi, molti di voi avranno letto, no? Senior Service, sì, splendido veramente. Però ecco, sono parole che fanno riflettere. Ecco. Nell'introduzione all'edizione qualcuno di noi definisce tipicamente feltrinelliana, no? La scoperta di Vittorio Battistoni, no? In qualche modo. Cioè tu fai parte del destino, cioè, così, cioè, il Gattopardo, Dottor Givago certamente, beh, io ci metto anche Monica Hertel e quindi l'esecuzione di Quintanilla, ecco, sono cose, sono episodi, sono vicende straordinarie, ecco, tra cui Radio Gap, la pubblicazione di Danilo Montani, che sì, sì, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Posso aggiungere una cosa? Appunto, la radio fu attiva in diverse realtà, appunto, si è detto Genova, Milano, Trento, anche a Roma. A Roma c'ero andato io personalmente, insieme a un altro, che ora non mi ricordo chi fosse, a portargli giù un apparecchio che poi l'abbiamo lasciato. Dicevo che a Roma c'ero andato io personalmente, non a fare una trasmissione, ma a lasciare il materiale a qualcuno che ora non ricordo chi fosse e che si era incaricato ero andato a prendere a Trento al Saugo, gliel'avevo portata io, poi una o due a Trento addirittura, che poi se la gestivano poi per conto loro, però un paio di volte ci sono andato io personalmente a attrezzargli la trasmissione, poi gli è rimasto l'apparecchio e se lo sono gestiti per conto loro, il Saugo, con di nome io conoscevo solo il Saugo, anche lui non è che mi conoscesse, però di nome, che sapesse chi ero, dove abitavo, come mi chiamavo, non sapeva niente. Ripeto, gli unici tre che sapevano, questa è una delle ragioni, assieme, come ho già detto altre volte, alla fortuna, perché la fortuna ci vuole sempre, comunque una delle ragioni per cui io non sono finito mai in galera, perché appunto non mi conosceva nessuno sapeva come mi chiamavo, nessuno poteva confessare, poteva dire, si erano solo Pericinotti, Feltrinelli e Lasagna che sapevano come rintracciarmi, come trovarmi, come... anche se ho incontrato decine, Moretti l'ho incontrato tre volte, ma non... Il giorno prima di Boiardo, del covo di via Boiardo. Il giorno stesso del covo di via Boiardo, il giorno stesso. Noi siamo usciti insieme appunto a uno che poi, vedendo le fotografie anni dopo, il risultato che era Moretti... Mario Moretti, sì. Siamo usciti da quel posto lì di via Boiardo dove io ero andato a sentire un po' che cosa voleva e che cosa potevo fare per loro, ma potevo fare poco perché lui cercava un'officina dove si potessero fare delle modifiche a delle armi, io avevo un'officina, sì, dove costruivo macchine, ma come faccio ad andare lì da quello che lavora la fresatrice e dirgli che guarda che dovresti trasformare un po' questa pistola e come lì c'ero solo io con queste idee, gli altri erano anche i miei soci, eravamo in due, in tre, cioè uno poi se n'è andato, ma cosa gli dica ai miei soci, adesso dovrei trasformare un po' due o tre mitra, farli vedere pur avendo un'officina a disposizione non potevo fare delle cose simili, quindi alla fine con Moretti non abbiamo concluso niente, comunque eravamo lì a chiacchierare in via Boiardo, non lo so perché io ci sono arrivato con la testa così sotto al come si può chiamare lì, sotto al cruscotto così per precauzione, Quando siamo usciti, che sarà stato circa mezzogiorno, siamo andati lì di sotto, lì vicino, insomma, poche centinaia di metri. C'era uno di quei bei posti tipici delle piole milanesi, quello che si entra e poi si attraversa tutto il locale, e poi c'è un cortile, che è un cortile fra quattro palazzi, ma con la teppia, la teppia però è una parola genovese se non sbaglio, con la pergolato, ecco, e sotto al pergolo i tavoli, e ci siamo seduti lì a mangiare una pasta asciutta. E poi io sono andato da una stazione del metro lì vicino e lui ha tentato di tornare nel posto dove eravamo. È passato lì, gli hanno fatto segno che se ne via, via, via. C'erano anche lì poliziotti, vigili urbani, servizi vari, carabinieri, tutti lì che erano nel covo, avevano occupato, insomma, erano entrati in un covo delle BR. E io quando sono arrivato alla stazione, ho preso il treno, era poco dopo mezzogiorno, sono arrivato a Genova, che era ancora presto, era stata alle 5, era un giorno d'estate fra l'altro, o perlomeno molto caldo, ma era estate. E sono andato a Genova a fare due o tre commissioni, poi vado a prendere un treno verso le 6, 6 e mezza per tornare a Chiavari, e ho visto il mercantile, che allora usciva anche al pomeriggio, con la fotografia del posto esattamente dove eravamo io e quell'altro fino a un quarto d'ora prima che arrivassero i poliziotti, forse mezz'ora, ma certamente non di più, che l'ho riconosciuto, perché lì dentro c'era pieno di roba che poi ho capito proveniva dalla Siemens, cioè rotoli di filo, di nastri, di materiali di tutti i generi, cavi, che erano esattamente quelli che erano lì quando io chiacchieravo come adesso con lui. Erano sulla prima pagina, andare a cercarlo si troverebbe forse ancora da qualche parte il Corriere Mercantile di quella sera lì, di quel giorno lì. E vabbè, insomma, per cui dicevo, ecco, non sono mai finito in galera per il fatto di essere così marginale. Io non ho mai partecipato a manifestazioni, a, come si dice, incontri, conferenze, non sono manco andato ai funerali di Feltrinelli, che li fotografavano tutti, e poi andare a cercare uno per uno chi erano. Non sono mai partecipato a nessuna riunione di carattere, diciamo così, politico, così. Io semplicemente parlavo con Perissinotti, quello che mi diceva che c'era da fare questo e questo, se volevo dare una mano, generalmente io ho sempre detto di sì, all'infuori di questa volta. Lui ti ha trovato, in un documento ti ha trovato. Dove? No. Sì, ho trovato appunto un documento della Questura di Genova in cui si descrive, no, alcuni militanti dei GAP o presunti gappisti. Poi a un certo punto si parla di un tecnico molto abile, ma che non è ancora identificato. Eh sì, perché direi che sei tu. Probabilmente sarebbe, in realtà sarebbe il tedesco, ma loro non sapevano manco che esistesse il tedesco. Probabilmente ci riferivano a me, pensavo. Probabilmente sì. Io. Per quanto viene fatto poi l'elenco di alcuni, c'è Emilio, c'è altri militanti che poi vennero inquisiti, poi sono Vittorio Togliatti, la Calimodio, insomma, che poi vennero in realtà non assolti, diciamo. E appunto a un certo punto si arriva a parlare di un tecnico, e questo, ecco, che è molto abile ma non identificato, per fortuna. Decisamente. E vabbè. No, mi veniva da fare una considerazione su quello che diceva Giorgio, cioè ci vorrebbe adesso una radio GAP. Ah, io penso che si potrebbe fare, però metaforicamente, ma anche concretamente. Secondo me si potrebbe fare concretamente, bisogna trovare la persona giusta. Iniziative tentiamo di rompere la disinformazione che c'è in giro. Facciamo il nostro piccolo. Si tratta di interrompere Vespa, di interrompere Meloni, mentre è questo, cioè questo è di farlo. Secondo me tecnicamente è fattibile, ecco, no? È impossibile che non lo sia, però anche a questo in realtà bisognerebbe pensare, ecco, no? Possibilmente qualche giovane dovrebbe farlo, ecco, no? Sì, bisognerebbe chiarire bene come arrivano queste trasmissioni nei vari posti, cioè dove sono ripetitori, Io non ne ho idea di come vadano queste cose. Allora, forse il decreto sicurezza non prevede queste fattispecie per il momento, e quindi potremmo, no, approfittarne. Rispetto alle ricostruzioni che ogni anno siamo, l'anno scorso il processo su Cascina Spiotta che hanno messo su, quest'anno Bertolazzi, e sembra che debbano, cioè lo spettro si debba mantenere all'infinito, noi facciamo una piccola radio gap rispetto a queste ricostruzioni storiche, di più io non ci capisco nulla di elettronico o di cose. Poi forse aveva ragione anche Giovanni che le forme della comunicazione sono così cambiate che non so se proprio è così semplice fare queste cose. Però, e chi vuole intervenire lo può fare, eh? Può fare domande, intervenire, si può fare. L'esperienza gappista è un'esperienza milanese, giapponese. Milanese, genovese, trentina, Trento. E imparzialmente toscana, vero Davide? Toscana e Roma anche, a Roma anche. Ci sono stato io a Roma, c'era l'avvocato, dormito a casa dell'avvocato, come si chiamava? Devi avvicinarti. Sì, ora non mi ricordo come si chiamava l'avvocato che difendeva tutti... Edoardo Di Giovanni. Di Giovanni, sì. Che allora era il difensore ufficiale di tutti gli extraparlamentari, come li chiamavano. Avvocato Di Giovanni. Sì, è interessante rispetto alla radio, appunto, era uno strumento che Feltrinelli metteva a disposizione in realtà dei vari gruppi, perché... Racconta ad esempio Curcio che ebbero anche loro una radio gap che provarono anche a utilizzare, non andò benissimo dal punto di vista tecnico, quindi poi non riutilizzarono. O ad esempio l'interferenza che viene fatta a Roma, di cui è conservato anche la cassetta, si ascolta, è molto diversa dalle altre, proprio a livello politico, mentre le altre interferenze fanno molto riferimento al tema dell'antifascismo, sì, al tema dell'antifranchismo per esempio. Quella romana fa riferimento a invita a lottare contro il caro biglietti dei mezzi pubblici per esempio. Quindi era uno strumento, come dire, messo a disposizione dei vari gruppi con indipendente poi dal messaggio, cioè ogni gruppo poteva utilizzarlo per messaggi che riteneva più opportuni, quindi intercettava anche, e da questo punto di vista è anche un qualcosa di molto, da un lato che guarda al passato, la radio durante la resistenza, ma dall'altro guarda anche al futuro, in qualche modo le radio libere, l'idea a Bologna durante gli scontri che ci si possa muovere sapendo dove si muovono le forze dell'ordine anche attraverso l'uso della radio, per esempio nel 77, in qualche modo Radio Gap, come dire, anticipa questo. Chiaramente è diverso, però è uno strumento, come dire, che guarda al passato e forse pensa anche un pochino al futuro, che nell'immediato non venne poi colto moltissimo, ecco, ebbe una, nonostante fosse una qualcosa, da quel punto di vista sì, e poteva raggiungere anche, come dire, uno spettro di ascoltatori molto diverso, ecco, perché rispetto magari a quello poteva raggiungere un volantino che veniva magari distribuito nei quartieri, nelle fabbriche, nelle università. Radio Gap potenzialmente raggiungeva chiunque, anche magari coloro che non ne venivano intercettati, ecco, dalla propaganda politica attraverso appunto i volantini e gli opuscoli, quindi in qualche modo aveva una sua, anche se mi sembra che l'idea loro era quella di interrompere la comunicazione del potere, cioè quando intervengono su TG1 eccetera, la loro idea era, come dire, far passare, entrare dentro la comunicazione ufficiale, no. sì questo è il doppio aspetto, da un lato rompere la comunicazione ufficiale, appunto come dicevi, mainstream, intervenire su quella, interferire, si ragionava prima si coprivano alcuni quartieri, però se si pensa anche questo, un'attività di Radio Gap sincronizzata su più realtà, si poteva arrivare a coprire molto di più, deve essere anche molto più incisiva. Da un lato, in realtà, con Radio Gap si rivendicano azioni, quelle del gruppo 22 ottobre, si chiama alla mobilitazione, perché penso al quando era stato appunto programmato il congresso del movimento sociale di Almirante a Genova, si chiama la mobilitazione, quindi vuol dire uno strumento sia di rivendicazione sia anche di chiamata in qualche modo alla mobilitazione, che ebbe poi anche un certo effetto, direi. Sicuramente suscitò molto clamore, in grado di suscitare molto, molto clamore. E quindi, secondo me, non va sottovalutata, anzi va valorizzata l'importanza di questa intuizione gappista, feltrinelliana, quella di Radio Gap, così come l'idea della rete, anche, no? Cioè, che purtroppo confliggeva con la tendenza a costituirsi in gruppi dell'epoca. Però questa idea della rete trasversale, no, a cui tutti potevano partecipare, poi ha mostrato una tenuta persino insospettabile nel tempo, perché noi stessi oggi, no, Davide lo può testimoniare, a distanza di 50 anni e oltre dalla caduta abbiamo avuto delle difficoltà a ricostruirla, questa rete, no? Nel senso che la rete poi, nel momento in cui l'esperienza si è chiusa, si è dissolta. Ecco, nessuno si è sentito di dover ricordare, confessare, rivelare delle cose. Questa è una tenuta molto, molto interessante. Ecco, noi abbiamo incontrato altri gappisti, ecco, che però ci hanno chiesto di non essere citati, per esempio. E noi abbiamo rispettato ovviamente la loro volontà. Persone il cui nome non è mai comparso. Questo io lo ritengo molto bello. Ecco. Volevo chiedere una cosa a Vittorio. Intanto volevo dire che lui dice: sono stato fortunato a non finire in galera. Devo dire, perché sia i GAP che da 22 non hanno avuto il fenomeno del pentitismo e della dissociazione. Altrimenti in galera ci finivi comunque, come è finito, ma non funziona. Ah, no. Altrimenti ci si finiva. Volevo chiedere, Vittorio, tu dopo la morte di Feltrinelli, dopo qualche anno in realtà hai smesso di cosa, però ti sei tenuto questa Radio Gap per 50 anni in casa, e oramai era lì, perché dovevo... Ma di quell'esperienza, no? Siccome si racconta oggi la storia, la memoria si racconta in un modo, di quell'esperienza che cosa ha segnato, tu che cosa hai fatto del tuo vissuto di quell'esperienza? Perché uno che si tiene comunque una radio per 50 anni in casa, e che radio diciamo, dire che l'ha segnato quella storia. E beh, questo senza dubbio, io sono rimasto, ma non sono rimasto molto scosso quando è morto, ma non è per questa ragione che io ho tenuto lì quella radio, perché tutto sommato io avevo dopo un po' avevo smesso anche di interessarmi di queste cose, nessuno mi cercava più perché quei contatti che avevo io o erano scappati o erano in galera, per cui io non... Mi sembrava forse anche di non correre più dei rischi. Di non... Per i Sinotti non è stato un periodo in Francia, mi pare anche. Feltrinelli era morto, l'avvocato Lazzagna non l'ho più sentito, insomma tutto questo gruppo del 22 ottobre era scomparso. E io... Tutti in galera. Tutti in galera, e in poche parole... Nessuno mi cercava più. Avevo anche, non avevo, questa radio l'ho sempre tenuta lì perché appunto a sto punto mi sembrava di non correre più nessun rischio, ormai era tutta acqua passata. Certamente mi ha lasciato molto sconvolto il dubbio di aver contribuito, alla fine, nel senso che insomma questo fatto di usare l'orologio da polso lo avevo suggerito io. Come timer? Sì, usare l'orologio da polso come timer lo avevo sostituito io, ripeto, che era una cosa assurda, che si poteva comprarne quanti voleva. Perché non mi ha detto di comprarne 5 o 6, di 10, 20 o di trasformarli di quelli che si... Io ne usavo in continuazione dei timer, in tutte le macchine che facevo ce n'erano, elettrici, elettronici, meccanici, di tutti i tipi. Ma che si è voluto ostinare? Io gli raccontavo delle cose, poi gliele raccontavo bene, cioè vedevo il fatto di vedere, di suscitare così interesse, lui mi stava a sentire con grande interesse, ti spinge. Io ero anche chiaramente un po' soggiogato dalla personalità di questo personaggio così straordinario, che era lì, che discuteva con me, che parlava, gli raccontavo delle cose e che mi stava a sentire con grande interesse, gli raccontavo come fabbricare cose assurde che nessuno avrebbe mai fatto, chiaro, né lui né io l'avremmo mai fatto, ma però io in passato l'avevo fatto, come produrre della nitroglicerina in cucina. Io l'ho fatto varie volte, come produrre del fulminato di mercurio che era l'innesco per tutte le armi, no? Comprese le cartucce da caccia, quelle cose lì, per far partire la carica. C'è una piccola carica, un tempo era fulminato di mercurio, adesso smettono dell'altra roba perché il mercurio costa troppo caro, non ce n'è più in giro. Ma io ce n'avevo alcuni chili di mercurio e di fulminato di mercurio ne ho fatto quello che era necessario per vedere un po' come si fa. Fra l'altro una reazione molto, come dire, molto caratteristica, molto proprio da antro delle streghe, quando si mescolano le varie cose, tutte cose che si comprano dal ferramenta o in farmacia o al consorzio agrario. Comincia a bollire, prima si sviluppano dei fumi di ipoazotile, di perossido di azoto, NO2, che sono bianchi, poi dopo un po' continua a bollire e a un certo punto... Non facciamo le lezioni. A un certo punto arriva dei fumi rossi di ipoazotide, si chiama, e poi alla fine sul fondo rimane questa sabbia che bisogna lavarlo bene. Era lui il tecnico. Mentre invece la nitroglicerina è una reazione molto... che non è per niente appariscente, bisogna mettersi lì, borbottare, perché io ci avevo... Lui voleva far da sé comunque, tornando... Sì, aveva molto questa fissa, poi quelle cose appunto di comprare delle cose che si trovano comunemente in giro, vuoi fare la nitroglicerina, acido nitrico che si compra da qualunque negozio, a Genova per esempio da mela o in qualunque parte, acido solforico che va benissimo con le batterie, glicerina, quella da ungere i tappi per imbottigliare il vino. Questi sono gli unici ingredienti che servono e alla fine ti esce fuori la nitroglicerina. È una reazione lenta, difficile, insomma bisogna borbottare, cioè in termine chimico fare nell'acqua perché rimescoli bene, no? Non è per niente appariscente, non vengono fumate, no? Però alla fine la nitroglicerina un po' se ne trova. Pensi che dietro la logica fosse quella diciamo di avere a che fare con strumenti d'offesa a disposizione, sì, delle masse, no? Quindi ecco, no? Quindi ecco, orologi, un orologio meccanico di quelli lì da 4 soldi si poteva comprare con 2 o 3 mila lire, insomma, il costo di andare a mangiare a mezzogiorno, ma forse anche meno. Erano tutti cinesi, ma ancora adesso si comprano degli orologi meccanici per 4 soldi, proprio nel vero senso della parola, 5 euro. Quindi chiunque può farlo. Chiunque può farlo. Questi erano orologi. Chiunque può farlo e con cose che si trovano da tutte le parti, che non occorre procurarsi chissà quali. Vittorio, ascolta, c'era anche un altro elemento politico. Va bene. E una volta sono venuto a Genova a presentare un libro, come si chiama quel posto? Grimaldello, Grimaldello, sì, insomma, un centro sociale. Esatto. E c'era Viel, viveva ancora Viel, e si parlava esattamente Viel Augusto, insomma, Tino lo chiamavamo dai tempi della cosa Tino, e si parlava di Feltrinelli, e questa cosa che dice lui voleva fare da solo, e lui una volta mi disse: sì, perché ai tempi Feltrinelli, se tu gli dicevi tu fai l'intellettuale, quello facciamo, lui si offendeva, come se gli dicevi tu sei stronzo, io no. Sì, quindi sì, aveva questa cosa di, come dire, di non distinguere l'azione da dall'intellettuale, insomma. Sì, sì, sì, sì. Lui aveva questa cosa qui, certamente. E poi soprattutto questo fatto di non dover dipendere da nessuno, di poter essere in grado di fare tutto da sé, tutto quello che gli serviva, di poterlo fare da sé. Però quello lì di usare l'orologio da polso, c'è rimasto solo quello di mio, nella sua fine c'è rimasto solo il fatto di aver usato l'orologio da polso, di non averlo usato come gli ho detto io, come gli avevo spiegato io con molta precisione. Però, ma perché? Era assurdo, era inutile. Bastava che mi dicesse che ne portassi una ventina di i detonatori per far partire le cariche, quelli non gli interessavano, perché diceva che in Austria si comprano con la facilità con cui si compra un pacchetto di sigarette, e quindi lui ne aveva finché voleva. Perché io quelli non ce li avevo, perché quando ho preso tutti quei chili di titan, c'era il titan, la miccia, ma i detonatori non c'erano. Poi ho saputo che i regolamenti prescrivono che i detonatori non devono stare nello stesso ambiente dove stanno gli esplosivi. Gli esplosivi devono stare in una baracca per conto suo e i detonatori in un altro posto. Io sono andato dove c'era il titan e i detonatori non li ho trovati, infatti. Ma ripeto, lui diceva che si compra come comprare un pacchetto di sigarette senza nessun problema. Sono molto interessato anche alle storie umane. Domanda mia, ma visto che dopo, poi, come dicevi prima, ti sei sostanzialmente defilato per tutte le ragioni che hai detto, però in realtà a Genova succedeva di tutto, anche adesso, bello o non bello, il libro di Luzzatto racconta di una città dove succedeva di tutto per anni. Domanda mia, non è che avendo tu incontrato comunque un gigante così, poi tutte le persone dopo in qualche modo ti interessavano meno, erano un po' deludenti? Beh, curiosità mia, sì, perché in fondo sì, l'impatto con uno come Feltrinelli dopo tutti gli altri, sì, sembra quattro pirla, chiedo. Sì, sì, sì, è possibilissimo, ammetto tranquillamente, sì, sì. E ammetto anche, l'ho già detto, che io ero soggiogato dalla personalità di questo individuo. Quando è morto, vabbè. Un dolore immenso e il sentimento tutto sommato di aver contribuito in fin dei conti, l'ha fatto male, ha fatto quello che dicevo io, o perlomeno l'ha fatto fare da qualcuno che lo ha fatto male, perché quel disegno che mi hai fatto vedere lo ha fatto quello. Qualcuno che gli ha detto sì sì me ne occupo io, e ha fatto un circuito che assolutamente non era manco parente di quello che avevo detto. Sì, perché io qui in archivio di Stato a Milano, dove sono raccolti i documenti del processo GAP-BR, ho rinvenuto appunto un documento che era stato trovato in un appartamento di Feltrinelli, in cui era un disegno di un, diciamo, di un circuito che probabilmente utilizzato a Segrate. Probabilmente sì, o comunque simile a quelli utilizzati a Segrate, e l'abbiamo confrontato perché Vittorio ci aveva dato appunto alcuni disegni, alcuni schemi di quello che aveva lui raccontato a Gian Giacomo, quello che aveva lui spiegato come realizzare questo tipo di ordigni, e in realtà era molto diverso da quello che... Sì, sì. E te l'ho detto, da quello che utilizzava dei componenti tipici dell'elettronica, cioè i semiconduttori e cose simili, mentre io utilizzavo solo degli elementi elettromeccanici, interruttori e movimenti meccanici, e nient'altro, niente di elettronico, solo elettromeccanico. Aggiungo una cosa, sicuramente la tua testimonianza ci ha permesso di mettere, direi, un punto sulle tante illazioni che sono state fatte sulla morte di Feltrinelli e che tuttora in realtà poi spesso vengono riproposte, argomentazioni trite, ritrite. In realtà abbiamo la testimonianza di chi quella mattina era lì con lui e gli portò appunto il Titan, quindi evidentemente Feltrinelli andò a Segrate per fare quello che è andato a fare, ecco, non ci sono alcun dubbio. Però spesso vengono riproposte, so che può sembrare, ripeterlo può sembrare un po' ridondante, però capita che spesso venga riproposto, addirittura alcuni retrodatano la data, cioè delle cose anche che poi non stanno in piedi di per sé, però ogni tanto viene riproposto, ecco, Feltrinelli venga portato lì, è stato assassinato prima e poi portato lì, insomma. Adesso la testimonianza di Vittorio non può essere ignorata, quindi ecco. Io ritengo che finalmente non ci saranno più libri orribili come quello, l'ultimo, Pinotti mi pare si chiami, ecco. Sì, libri veramente orribili con delle tesi fantasmagoriche, complottiste sulla morte di Feltrinelli, eccetera. Basta, ecco, se non altro la testimonianza di Vittorio permette di non vederne più, probabilmente. Ecco. Ricordiamoci che per tutti, buona parte degli anni 70, anche a sinistra si è pensato legami con i fascisti, cioè si è detto di tutto, pur di non riconoscere che c'era una componente che stava già pensando alle forme di lotta armata, insomma, e di cui faceva parte per tre anni. Sì, sì, ci fu una difficoltà appunto a riconoscere l'identità politica di Feltrinelli, a parte il potere operaio, che nel famoso appunto nuovo potere operaio, che sono un rivoluzionario è caduto, riconoscendo l'identità rivoluzionaria di Feltrinelli, e mentre altri gruppi, altre realtà o rimasero, come dire, ambigue sulla possibile morte di Feltrinelli, anche sulla sua morte, appunto, è stato assassinato dai servizi piuttosto che dai fascisti. Probabilmente, dal mio punto di vista, ci fu anche un motivo paradossalmente semplice, però riconoscere una vicinanza politica a Feltrinelli. Ricordiamo che quando muore Feltrinelli le Brigate Rosse sono appena, insomma, compiono le prime azioni di un certo rilievo a febbraio, un mese prima. Quindi ecco, riconoscere una vicinanza con qualcuno che probabilmente aveva messo, aveva minato dei tralicci, aveva usato delle forme armate di lotta politica, come dire, per convenienza politica era meglio, ecco, non parlarne troppo. Rimane comprensibile, ecco, rispetto a... Se si esclude la 22 ottobre, alla morte di Feltrinelli, altre organizzazioni armate non c'erano ancora. E quindi, come dire, riconoscere un'identità politica a Feltrinelli vuol dire in qualche modo riconoscere che si conosceva quello che faceva Feltrinelli, che si era al corrente quantomeno, nella migliore delle ipotesi. Quindi probabilmente questo anche ha contribuito a rilanciare un po' la tesi del Feltrinelli appunto assassinato dai fascisti, ecco. Ma se ho capito bene, dicevi che Potere Operaio ha pubblicato qualcosa dove... l'unico giornale che subito dopo, la mattina del 15, scrisse questo titolo. Disse sì, Feltrinelli era un rivoluzionario, un militante politico. Però se era subito il giorno dopo non c'entra niente, perché io... No, questo qualche... Dopo alcuni giorni sì, uscì molto. Sono venuti a casa mia due persone. Dicevo che dopo alcuni giorni, quindi non il... Sì, non il giorno dopo, ma dopo alcuni giorni sono venuti a casa mia due persone, sempre mandate da Prisinotti, che stavano facendo un'indagine interna. Io pensavo che fossero di lotta continua, però non è che ci avessero il distintivo o potevano anche essere di potere controinformazione, a cui io ho raccontato per filo e per segno tutto quello che ho detto adesso, e quindi questi non erano certo loro a tirare in ballo cose segrete e cose simili. Qualcuno di questi movimenti, almeno la mia versione, la conosceva. Sì, anche le stesse Brigate Rosse, poi fecero alcune inchieste per capire come andò appunto a Segrate, chi era presente, però poi appunto anche loro, non, a parte Potere Operaio, fu l'unico che di fatto riconobbe da subito, nel senso uscì dopo una settimana forse, sì, l'editoriale. Penso che sia, credo fosse di Oreste, credo, ecco, Oreste Scalzone, l'autore di questo editoriale comparso in prima pagina di Potere Operaio. Dove c'è la fondazione? Sì, sì. E lì c'era la sede dove, sì, Scalzone e quegli altri si riuniscono il giorno dopo e fanno il punto della situazione. Caso strano. L'officina l'hanno poi trovata, pensate. Come dice? Quando viene dall'Alessandria te lo presento, quello che ha fatto l'officina al posto suo. Ok, no, volentieri. Come dice? Non ho capito. Hanno trovato un sostituto di Vittorio. Era figlio di Vittorio. Penso che l'avranno trovato. Penso che l'avranno trovato. Però ecco, no, io faccio una domanda a questo punto, perché a Genova l'esperienza della 22 ottobre è una domanda che faccio a tutti voi, ecco, ed evidentemente quella dei GAP, no? In qualche modo è ancora viva, o comunque lo è stata per decine di anni, no? Se è vero che c'è stata la produzione di questo audiovisivo, purtroppo scomparso, è rimasto solamente un testo. Se è vero che poi sono stati pubblicati due libri, se è vero che ci sono state varie interviste fatte ai vari Mario Rossi, Piccardo, De Sciscolo, Fiorani, eccetera, manifesti, ecco, tra cui quello che è stato pubblicato, ripubblicato più volte, quello con quella frase "riconosciamo nella tua vita la storia degli errori e delle vittorie del comunismo e ci ritroveremo mescolati alla rinfusa assieme a quelli di Kronstadt, delle Asturie, di Varsavia, eccetera eccetera". Ecco, come dire, a Genova questa vicenda la gestione, l'elaborazione di questa vicenda è durata decine di anni. Ecco, a Milano, è una domanda che faccio, voglio dire, quindi ha segnato, poi se pensiamo anche all'esperienza di Gianfranco Faina, no? e dei gruppi che si sono formati attorno, da lui influenzati, da lui orientati, ecco, mi chiedo cosa sia rimasto, non adesso evidentemente, però negli anni successivi dell'esperienza dei GAP feltrinelliani, quindi in questo caso curiosamente è dal tavolo che viene fatta una domanda al pubblico, se qualcuno vuole rispondere. Vieni. C'è qualcuno che ci ascolta anche da fuori? Io sono Milano, posso dirti quella che è la mia idea, certo. Cioè, a Milano sono successe tantissime cose dopo che probabilmente, ed effettivamente come dici tu, l'esperienza di The Gap a Milano non è stata tra quelle più valorizzate ed elaborate, quindi se questo è successo a Genova, però Genova è un'altra storia oggettivamente, la 22 ottobre, cioè quella è una storia molto genovese, Faina pure. A Milano sono successe tantissime cose dopo, quindi credo di non sbagliare nel dire che forse la vicenda di Feltrinelli e De Gap è un po' passata in secondo piano, per rispondere alla tua domanda, peraltro non ti so dire. Diciamo, da un punto di vista storico fu ereditata completamente dalle BR, anche perché il gruppo 22 qui non c'era, c'era il gruppo Comasco, che poi sono stati imputati insieme con Enzo Fontana e gli altri, con il gruppo, però è stato completamente assorbito prima la Biennale le cose, poi dopo la Walter, insomma, si è estinta come cosa da, pur essendo la città dove lui, diciamo, viveva. La Feltrinelli è diventato altro come casa editrice, però qui fu molto forte la componente che poi qui veniva dal collettivo politico metropolitano, insomma, quello che era l'eredità milanese, che è diventata poi Sinistra Proletaria, poi sono diventate le BR e poi la Walter Alassi, insomma. A meno che Davide nelle sue ricerche non abbia trovato. No, io volevo aggiungere, rispetto appunto a Genova, da 22 ottobre i GAP furono importanti per quello che fecero, ma anche per quello che mossero in città, innescarono in città, se ne è anche parlato di questo. Fu soprattutto come poi fu trattato il gruppo 22 ottobre a livello processuale. Quello pose, come dire, un certo discrimine tra chi era pronto anche a difenderlo, il gruppo 22 ottobre, e chi non era pronto. Indipendentemente poi dalla condivisione di quel tipo di azioni o di realtà, ma il modo in cui vengono presentati fu un bel discrimine, ecco, perché molti sulla mancata, in parte inizialmente, sulla mancata difesa del gruppo 22 ottobre, poi faranno appunto, si allontaneranno per esempio dai loro gruppi. Penso molti da Lotta Continua si allontanano proprio perché Lotta Continua non di fatto fa ben poco per difendere a Genova il 22 ottobre. E alcuni su questo si allontanano, soprattutto la componente proletaria. Il 20 ottobre erano questo, proletari come noi, e non ha senso, politicamente vanno aiutati, vanno difesi. Quindi, come dire, fu importante come esperienza in sé, ma anche poi quello che innescò in tutta l'area della sinistra rivoluzionaria. Sì, sì, io sono d'accordo su questo, è che in realtà la mia domanda riguardava più che altro la figura di Gian Giacomo Feltrinelli, perché è vero, Davide, quello che dici tu, assolutamente. Ecco, però la sensazione che io ho avuto è che poi ci sia stato in qualche modo una rimozione del personaggio Feltrinelli, no? della figura politica, intendo di questo, ecco, no? A Milano, no? Feltrinelli era milanese, ma secondo me anche l'esistenza o la sopravvivenza di tesi complottiste sulla sua sorte è giustificata dal fatto che è come se Milano avesse rifiutato, ecco, come se non avesse adeguatamente valorizzato la figura politica di Feltrinelli. Questa è la sensazione che ho avuto. Parlavo di questo, ecco. Poi sul fatto degli avvenimenti, di ciò che è successo a Milano, che ha avuto ben altro rilievo, beh, questo è l'obiettivo, certo. Però ecco, l'imprenditore, il ricco imprenditore che flirta con l'estrema sinistra, che si inventa la storia del colpo di Stato, ecco, questa roba qua, secondo me, l'ingenuo, no? Il candido, cioè, secondo me, ecco, questa narrazione poi ha avuto i suoi effetti, ecco, nella rimozione, ecco, del personaggio, che invece è un grande personaggio, ecco, un personaggio grande, ecco. E così va ricordato, ecco, perché poi al di là di tutto, su Feltrinelli, al di là di Senior Service, che è un grande libro, veramente un grande libro, che cosa c'è? C'è una pubblicazione del giornalista Grandi, no, il quale notoriamente si è bevuto il cervello ed è diventato un paraleghista o qualcosa del genere. È un libro non brutto, quello dedicato a... Però è un giornalista oggi è un giornalista di destra. Quindi abbiamo, ripeto, Senior Service, abbiamo Grandi, che è un giornalista, e abbiamo Davide Serafino. Ma non abbiamo nient'altro. Il resto è spazzatura su Gian Giacomo Feltrinelli. È così? Quindi è un problema questo. Ecco. sentiamoci in colpa, voglio dire, no? Comunque abbiamo delle responsabilità, secondo me. Gianni, che piacere. Sì, piacere, comunque, qualsiasi cosa tu dica, mi fa piacere. Ci dimentichiamo forse che qui a Milano Feltrinelli ha rappresentato qualcosa che si chiamava allora terzomondismo. È stata questa la sua radice più forte. C'era una sinistra socialista, c'era una sinistra comunista. Poco avevano a che fare costoro con il pezzo successivo. E Feltrinelli era soprattutto radicato dentro la città su questa esperienza. Cina, Cuba, Corea, Vietnam, le lotte del terzo mondo, tutte le lotte di liberazione. C'era il Franz Fanon, c'era il Comitato Vietnam, c'era, che rappresentava anche un altro ricco milanese che tutti si sono dimenticati, che era Pirelli, che morì in un incidente d'auto in modo molto meno clamoroso di Gian Giacomo Feltrinelli, ma fu anche quella una sparizione molto significativa, perché i finanziamenti che in qualche modo venivano anche da Pirelli non erano secondari, anche perché erano ben mirati. Il Comitato Vietnam, senza di lui, penso che non avrebbe mai avuto gambe per scrivere, camminare, pubblicare, eccetera. Il problema è che a Milano non ci sono, cioè, non è che questa era a Milano l'esperienza di Feltrinelli più radicata, e di lotte del terzo mondo dopo la 22 ottobre non ce ne sono mica state tante. Non c'è stato un altro Vietnam, non c'è stata un'altra, cioè, è stato diverso. Che Guevara era già morto e quella esperienza era diventata una cosa completamente diversa. Le lotte sono diventate metropolitane, e con questo Milano ha camminato di gambe sue. Poi è vero quello che dice lui, che è stato fagocitato il grosso, perché gli appartamenti sono stati tutti consegnati alla struttura delle BR. La parte feltrinelliana dei servizi d'ordine, insomma, diciamo più vicina al potere operaio, è stata anche quella in qualche modo poi agganciata dalle BR. E quindi, proprio perché Feltrinelli non era le BR, era una cosa diverse, veniva da un'altra esperienza, da un'altra costruzione, non mi stupisce affatto che sia sparito, ma non perché ci sia stata una volontà di rimozione, semplicemente perché la storia funziona in questo modo. No, poi c'è anche da dire che a Genova, scusa Giorgio, si è rinnovato il problema nel sequestro Sossi. La richiesta di detenuti, di liberazione dei detenuti politici che fanno le BR, è quasi interamente tutta la grappa della 22 ottobre, tre quarti sono, è la richiesta della liberazione di quella 22 ottobre, quindi, ed era già 74, 75, cioè si è rinnovato, quell'esperienza è rimasta dentro la cosa. Dopodiché sono convinto che un processo di rimozione a Milano è avvenuto comunque, insomma. Sì, sul personaggio sì, Gianni, comunque, è un personaggio grande che si è accettato. Ripeto, la pubblicistica su Feltrinelli, quella che ho citato, cioè praticamente inesistente fino al libro di Davide che presentiamo oggi, perché a parte il libro autobiografico di Carlo Feltrinelli, cioè, questo è un dato obiettivo, ecco. Vabbè, perché abbiamo trovato Vittorio, scusa, non è che... sì, sì, è vero, la torpedine è Vittorio. Possiamo chiudere? Grazie. Ah, prego. A parte l'officina, che sappiamo che c'è stata. E volevo dirvi che io, studiando una cosa completamente diversa, cioè la biografia di un comunista austriaco che si chiama Langbein, che è forse uno dei più importanti testimoni della resistenza ad Auschwitz, ho incontrato, proprio in Senior Service, nella seconda edizione, non nella prima, la presenza di Feltrinelli come... Feltrinelli finanziava un gruppo di lavoro diretto da una persona che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Arlan, che era il figlio del regista di Sus l'Ebreo. Poi entrò in lotta continua, poi morì perché beveva, insomma, morto giovane. Questo Arlan si era preso il compito di andare in Polonia e studiare le carte della commissione d'inchiesta polacca su quello che era successo. Tenete presente quanto era difficile per un tedesco dell'Ovest andare in Polonia. Lì poi ebbe una storia complicatissima con una scrittrice polacca che si chiama Krystyna Dziwulska, i cui libri non sono mai stati tradotti in italiano, per una maledizione che hanno gli ebrei polacchi di sinistra. Cioè, qui entriamo in una storia complicatissima. Ecco, a un certo punto questo Langbein, io vedo, scrive a Feltrinelli e gli dice... Dov'è questo? Dov'è quello? I soldi arrivano qui. Tenete presente che c'era Arlan, c'era Langbein, c'era Feltrinelli, ma c'è anche il giudice che ha fatto il primo processo su Auschwitz, che poi si suicidò. Hanno fatto anche il film. Cioè, lui era dentro, anche per questa sua vicinanza alla Mitte, quindi ho sentito l'intervento sul Terzo Mondo, ma lui era molto vicino alla Mitte dell'Europa e lui stava programmando un libro sul Quarto Reich. Un libro che non è mai uscito, perché era mostruoso, gigantesco, e lui dava indicazioni dirette, economiche, geografiche, politiche, a questo Langbein, che era il presidente del comitato di Auschwitz, quindi era un personaggio politico, l'unica organizzazione in cui Est e Ovest rimasero insieme, ecco, per darvi l'idea di quanto era importante. Il suo libro, se volete leggere un suo libro, l'unico tradotto in italiano, si chiama Uomini ad Auschwitz, che è stato pubblicato da una casa editrice particolare solo su insistenza di Primo Levi. L'introduzione è di Primo Levi, erano amici. Lui, Langbein, fu espulso dal Partito Comunista Austriaco nel 1956, perché disse: noi veramente con i carri armati non siamo tanto d'accordo. Perse anche il posto di lavoro, eccetera. Quindi, ecco, questo per dirvi come, studiando una cosa completamente diversa da quello che avete citato voi, io ho picchiato, adesso sto studiando perché voglio andare all'archivio di questo Langbein, dove ci sono le lettere, ovviamente in tedesco, perché Feltrinelli sapeva il tedesco benissimo, come ed era uno dei pochissimi uomini di sinistra in Italia che sapesse il tedesco, anche parlarlo, perché voglio capire che cosa si dicevano di operativo. Cioè, so che ci sono queste lettere, qualche brano l'ho trovato, ma sono sicuro che lì ci sono riflessioni politiche, ma ci saranno anche quelle indicazioni pratiche, perché lui dava indicazioni precise: vai qui, vai lì, senti qui, guarda che forse qui, forse è passato, perché Feltrinelli aveva capito, come quello sapevano in tanti, che qui era passata tanta gente che lui cercava. Non a caso il rapporto poi si apre anche con Wiesenthal, ma Wiesenthal è un personaggio diverso da Langbein. Vi dico, se vi capita, questo libro Uomini in Auschwitz è un'enciclopedia spaventosa. Poi lui ha scritto altri libri che non sono stati tradotti in italiano, perché entrano un po' brutalmente sulla questione dei russi, dei polacchi, di come si volevano bene tra di loro, eccetera, eccetera, eccetera. Come c'è un capitolo sulla lotta fra i rossi e i verdi che è spaventoso, spaventoso. Non solo, ma è anche uno scritto che demolisce l'autorappresentazione della SED come resistenti ad Auschwitz, ma soprattutto a Ravensbrück, che era... Quindi... la figura è ancora tutta da vedere. Ecco, certamente io, se la salute mi assiste, visto l'età che abbiamo tutti, ho l'obiettivo di andare e pubblicare queste lettere, perché è testimonio di un lavoro parallelo di cui lui non si è mai vantato con nessuno. L'ha scoperto per caso il figlio nella seconda edizione, perché nella prima non c'era niente. Grazie. Grazie veramente. La Cina era restare, se interessava. Non ci vedremo mai. Non a caso era figlio di un importante imprenditore, quindi si è potuto fare un'officina senza soci. non ho capito cosa dire. Possiamo chiudere, giusto? Sì, sì, non c'è altro, sì, grazie a tutti, ci fermiamo.